Buongiorno, sono Gianluigi. No, ma quale la squadra va messa in quarantena? Non è che se uno viene trovato positivo chiudono tutta la ditta, eh? O in un supermercato una cassiera positiva chiude il supermercato. A me la risposta sembra talmente evidente quanto banale. Nel supermercato è possibile mantenere distanziamenti, utilizzare mascherine, guanti. Il calcio è uno sport nel quale non è possibile mantenere distanze, in cui i calciatori anzi devono correre, sudare, marcarsi. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buon pomeriggio a tutti, saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. E Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Eccomi, ciao Carlo. Eccoci, squadra completo perché è altra puntata della serie Convocati d'Onore. Buon pomeriggio Claudio Marchisio, grazie, ciao. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao, come va? Come stai? Tutto bene, per fortuna tutto bene. Senti, devo partire dalla cronaca stretta, dove facciamo questo mestiere, perché questa mattina Malagò, presidente del CONI, ha detto che al 99% la Serie A ripartirà il 13 giugno, aggiungendo, ma non so se arriverà alla fine. Questo ha detto Malagò. Facciamo subito gli onori di casa. Claudio, la tua posizione su questo momento del calcio, ma dello sport in generale, in Italia e non solo. Io non andrei troppo in là sulle dichiarazioni di Malagò, nel senso partiamo dalla parte positiva che c'è molto, quindi quello è il primo punto più importante. Se poi non finirà come ha detto lui stesso non lo so, ma noi dobbiamo partire da questo, dobbiamo partire da un po' di fiducia non soltanto nel mondo del calcio ma in tutti i settori, quindi speriamo che sia così. So che sei impegnato anche con la ristorazione, oltre che con il giornalismo. Quale preferisci dei due settori, così per inciso? Ma in realtà non è il mio settore il giornalismo, è un'opportunità che mi ha dato Marco Castelnuovo di poter raccontare quello che mi interessava di più e infatti l'ho sempre ringraziato per questo. La ristorazione è una vera realtà per me, soprattutto quest'anno che ho smesso, al primo anno mi sono ritrovato a gestire un'azienda con tanti dipendenti in un momento con la pandemia, quindi devo dire che Non è stato semplice, non lo è ancora, anche se siamo ripartiti, ma stiamo aspettando delle notizie, dei decreti più importanti per poter capire come andare avanti. Prima di lasciare da Pierluigi Pardo, appunto, per la prossima puntata di Mangia Come Parli, che è in fase di ritorno. Ti lascio naturalmente le domande degli altri, però nel settore della ristorazione la gestione di questo momento ti è sembrata e le prospettive ti sembrano quelle opportune e corrette, così allarghiamo anche il campo. Ma adesso diciamo che quasi tutti hanno trovato un equilibrio lavorando sul takeaway, sul delivery, e mantenere determinate sicurezze è importante non soltanto per noi ma anche in altri settori. Per il futuro il problema bisogna capire bene non soltanto le restrizioni ai clienti ma anche le restrizioni che ci saranno all'interno di ogni ristorante, non soltanto dai vari camerieri o chi lavora all'interno della sala ma anche in cucina. Quindi queste cose qua non le sappiamo ancora bene e bisognerà valutarle, anche perché così con le restrizioni che stanno mettendo ora dei 2 metri, di qualsiasi altra cosa, è veramente difficile poter tenere anche tutti i dipendenti dentro la propria struttura. Questo sì. Prego ragazzi, Giovanni vuoi cominciare? No, tu? Guarda, se posso dire una cosa, è molto interessante questa commistione fra temi, cioè il paese reale, quello che si occupa anche di altri settori e quello che succede intorno al calcio. Il paese reale è quello che racconta Claudio Marchisio, dove c'è la preoccupazione, l'attesa per norme certe anche al di fuori del calcio. Poi c'è l'altro paese, quello che pensa ad esempio, probabilmente perché non ci va chissà da quanto, che dentro un supermercato si possa mantenere il distanziamento. In questa settimana, in questi mesi, si sia mantenuto il distanziamento e quindi è tutto diverso rispetto a un altro settore industriale che aspetta certezze e che è il calcio. Io volevo chiedere a Claudio Marchisio questo: non ha l'impressione che il destino del calcio, non solo di questa stagione, del calcio e dello sport in generale, in questo momento sia in mano a persone che semplicemente non lo conoscono perché non l'hanno mai praticato? Non intendo solo da calciatori, ma anche da dirigenti, da persone che ci ha speso dentro degli anni della propria vita. No, io credo che ci siano validi professionisti che non sono stati dentro il mondo del calcio ma stanno cercando di di farlo ripartire nel modo migliore, non soltanto dalla parte sport ma dalla parte sicurezza. Ricordiamoci sempre che il calcio è un'azienda importantissima in Italia e nel mondo, dove ha un'economia che gira molto importante, ma non è soltanto come i primi attori che sono i calciatori che scendono in campo, ma ci sono tante persone dietro, quindi non possiamo solo pensare di mandare in campo i giocatori, ma dobbiamo pensare anche a tutto quello che c'è dentro il contesto calcio. E questo è il punto di vista, secondo me, perfetto, che noi proviamo a rappresentare da un po' di tempo, perché ridurre il tema del calcio allo stipendio dei top player è veramente sbagliato, è una filiera che ci sta lavorando. No, io, visto che Claudio, insomma, è stato calciatore, e poi quando uno è calciatore rimane calciatore per sempre, fa l'imprenditore, ha una curiosità su mille cose del mondo, gli chiedo che idea si è fatto, insomma, se secondo lui si riuscirà a ripartire, se ci sarà la sicurezza necessaria, come si stanno muovendo, quanto pesa quello che succede negli altri paesi d'Europa sull'ipotesi della ripartenza. Ma io credo che in qualsiasi modo bisognerà ripartire per forza, perché sennò qui succede veramente qualcosa di non bello. Vedo poca fiducia sicuramente, non soltanto nel mondo dello sport ma in generale, perché come abbiamo detto prima è ancora tutto un po' in stand-by. La cosa importante è, come ho detto anche in altre situazioni, che il calcio lo si vuole far ripartire senza problematiche, tipo il contagio zero, tutto in sicurezza. È sbagliatissimo. Il calcio, come qualsiasi altra azienda, qualsiasi altra attività, non può pensare al contagio zero. Negli ultimi mesi sono stati investiti tantissimi soldi nella terapia intensiva, perché era un settore dove era in grandi difficoltà. Ma in futuro non bisognerà più aspettare che un paziente arrivi alla terapia intensiva, bisognerà fare sicuramente degli sforzi prima. La cosa più importante adesso è dare servizio dei test serologici, dei tamponi per qualsiasi situazione. Io spero che non sia vero, ma sento molte voci dove alcune regioni cercheranno di fare meno tamponi possibili per far ripartire il turismo, e questa è una cosa che mi spaventa tantissimo. Deve ripartire il turismo, ma con tutte le sicurezze indispensabili per tutti quanti. Queste sono le cose che mi preoccupano di più. E Claudio, quando ti candidi che ti voto? Stavo dicendo la stessa cosa. No, nel senso che è veramente, adesso al di là dell'amicizia, che però nasce, e Claudio penso lo possa confermare, dalla stima. Cioè, nasce essenzialmente dal fatto che vedo le cose che dice e mi trovo quasi sempre d'accordo, e anche quando, ove mai non mi trovassi d'accordo, però c'è sempre un pensiero. È esattamente questo, cioè un approccio laico alla questione. Non si può pensare che il contagio non esista, è giustissimo potenziare la terapia intensiva. La fase 2 ci hanno detto che si davano i tamponi, i tamponi ancora in tanti posti non ci sono per la mappatura delle persone, che è fondamentale. Allora il tema è assolutamente questo, no? Cioè, certo. non bisogna dividersi in gente che vuole ripartire a tutti i costi e gente che non vuole ripartire per ideologia. Bisogna fare le cose, bisogna farle in sicurezza. È facile a dirsi. Guarda, poi c'è anche il tema, perdonatemi, c'è anche il tema delle scorciatoie che ha sollevato Claudio, che può essere una regione che non fa i tamponi. Io oggi devo dire, tornando al calcio, sono rimasto veramente male leggendo l'articolo del Corriere della Sera sulle partitelle nel ritiro della Lazio, in questo momento assolutamente vietate. Poi due ore dopo abbiamo visto che la Federcalcio ha dovuto istituire i pool che andranno a controllare della Procura Federale che il protocollo venga applicato nella maniera corretta. Ci sono rimasto male e vorrei sapere che effetto ha fatto a lui, visto che questo è un momento in cui bisogna anche fidarsi l'uno degli altri. Certo, ma l'ho letto stamattina, l'ho letto e sicuramente ha fatto un po' sicuramente di scalpore. Ma ritorniamo al punto di prima. Il rischio anche in questo senso qua ci può anche stare, perché poi comunque stiamo parlando di uno sport di contatto e bisognerà andare a vedere che cosa succederà anche in quello. Però bisogna soltanto mettere in sicurezza le varie società, non soltanto sportive ma in generale, che anche se si andrà avanti in questo si riuscirà a fare tutto in tempo per cercare di seguire se ci saranno contagi o altro. L'unica certezza che noi abbiamo, perché tanto in questi mesi qua abbiamo tutti quanti, compreso me, ne abbiamo dette di cotte e di crude, ma l'unica cosa certa che abbiamo è che finché non ci sarà il vaccino non abbiamo abbiamo la certezza al 100%, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione qua, nel calcio come in qualsiasi altro settore. No, c'è stato anche, amici miei, la parola chiave è responsabilità, cioè bisogna ognuno avere il senso di responsabilità che è necessario per degli adulti normali, ma anche non per degli adulti, anche per i bambini che ne hanno spesso molta di più. Volevo notare invece e sentire cosa ne pensi, Claudio, su questo sentimento un po' di astio nei confronti del calcio, quasi si volessero far pagare al calcio quasi le sofferenze altrui e che gli tagliassero gli stipendi e che gli chiudessero in casa, che chiudessero i campionati. Ma soprattutto cosa si può fare, scusa, integro la domanda, visto che insomma sei anche uomo di comunicazione, che si può fare per te per rilanciare l'immagine del calcio? Perché voglio dire, comunque se il calcio sta antipatico, qualche domanda al di là di tutto deve anche farsela, no? C'è qualcosa che si può fare? Adesso io banalmente pensavo stamattina, sai il discorso dei tamponi, no? Ci sono tante aziende che privatamente comprano i tamponi per i propri dipendenti e lo scandalo non è che facciano i tamponi le aziende, lo scandalo è che ci sono persone con i sintomi che non riescono ad avere accesso a un tampone. Pensavo, la prima idea che mi viene in mente, se le società di calcio donassero per ogni tampone che fanno a un proprio giocatore un tampone alla comunità, questo sarebbe, anche se ci dovrebbe pensare lo Stato, ci dovrebbe pensare qualcun altro, ma questa sarebbe una cosa simbolica per far capire che non è che qui nessuno sta togliendo qualcosa agli altri. Sì, quello è vero, però ci soffermiamo sempre alla parte alta, al calcio, quello che tutti amano e tutti seguono di più, quindi il calcio della Serie A, della Champions League, ma pensiamo alle serie minori, società dove ci sono presidenti imprenditori che sono in grandissima difficoltà con le loro aziende e non sanno neanche come fare in quelle società lì. Tantissimi giovani che usciranno dal settore giovanile si apprestano a fare la carriera professionistica e non sapranno che cosa fare, la vicenda contratti, ci sono tantissime cose. È lo Stato che deve prendersi la responsabilità innanzitutto, non soltanto per il calcio, parliamoci chiaro, cioè in generale per tutte quante. Ci sono le aziende, gli imprenditori che hanno la possibilità perché hanno le spalle coperte per poter comprare i tamponi, ma dove un imprenditore non può arrivare ci deve arrivare assolutamente lo Stato per dare la sicurezza a tutti. E a me quello che spaventa sono sicuramente le serie minori nel calcio, che quest'estate sarà, ho paura che possa essere abbastanza tragica. Sì, lo sarà. Qualche passo credo sia stato fatto, ad esempio con la cassa integrazione possibile al di sotto dei 50.000 euro di stipendio, 50.000 euro lordi all'anno, quindi stiamo parlando di quei calciatori e quindi delle serie minori in cui chi ci gioca prende lo stipendio normale che prende un qualsiasi altro lavoratore, e la cosa dovrebbe essere stata inserita dentro il decreto approvato ieri. Mi fate chiedere a Claudio che peso bisogna dare secondo lui alle prese di posizione dei tifosi, in questo caso soprattutto delle curve, degli ultras che non vogliono il calcio, non lo vogliono senza tifosi. Cioè, cosa deve fare il mondo del calcio e dello sport davanti a questo tipo di pressione? Io credo che comunque gran parte anche dei tifosi, e il fatto di non farlo ripartire un po' può essere per insicurezze e paure proprie, ma anche per un fatto che pensare di far ripartire il calcio, e sentivo anche ieri Pierre con Condò che ne parlavano, vedere una partita di calcio come una partita di tennis senza il pubblico sarebbe una cosa irreale, una cosa che non piacerebbe a nessuno. Però purtroppo bisogna cercare di ripartire, e questa con le dovute responsabilità, con le dovute sicurezze, e tutti quanti dobbiamo abituarci, finché non ci sarà un vaccino, a questa vita che cambia per tutti, cioè chi sta un po' meglio chi sta sicuramente peggio, ma bisogna riadattarsi a tutto quanto, non è soltanto allo sport ma in generale alla vita quotidiana. Pensiamo a chi ha figli soltanto a casa e fino a settembre non si parla della scuola, quindi le problematiche sono talmente tante che bisogna cercare di adeguarsi a questo momento ed essere responsabili. Questa è la parte più importante. L'odio che si può leggere non soltanto nello sport, lo si può vedere anche col fatto di Silvia Romano. Dobbiamo fare anche attenzione noi a che cosa facciamo trapelare fuori nelle notizie. Appena è atterrata Silvia Romano, le prime tre parole sono state: ha cambiato nome, guardate che vestito e quanto abbiamo pagato, al posto di dire: guardate, è contenta, sta abbracciando i suoi genitori dopo un periodo bruttissimo. Le nostre problematiche personali non possono andare a intaccare tutta la società, dobbiamo cercare di essere più responsabili, ma soprattutto di avere meno odio sul prossimo, perché non deve essere questo il futuro di tutti noi. Grazie, ma il principino o il professore? No, vabbè, ma... ma vediamo se riesco. Vediamo se riesco a metterlo in difficoltà facendo sentire una cosa. E magari traghettando il discorso in un'altra direzione. Per me è finita qua la storia, cioè non ho problemi. Non... Scusami, lui l'ha proprio scritto in un libro. Ma secondo me è uscita male la frase. Anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene. Abbraccio grande. La facciamo la pace, vero? Ma non c'è mai stata la guerra, ragazzi, te l'ho già detto. Ci sono stati degli sprezzi, a me mi dispiace, ma qualcosa devo dire, Mario. Poi te l'avrei scritto fra un po'. Senti, Mario, te lo facciamo regalare il libro da Giorgio, eh? Sì, strappa le pagine dove parla di me. Va bene, Mario, promesso. Con le Iene nelle vesti di Kofi Annan, pace fatta tra Chiellini e Balotelli. Molto rumore ha fatto questa biografia, ne abbiamo parlato più l'altro giorno, sai benissimo, con Maurizio Cosetti che l'ha scritta con Chiellini. E allora chiedo un pensiero al professor Marchisio. Anche tu hai scritto una biografia qualche anno fa, nero su bianco. Ma la cosa più importante secondo me è stata l'ottima reazione di Mario, che ha cercato subito di mettere, c'era un po' queste voci, ma credo che Giorgio, lo conosco bene, è una persona che in questo libro qui stava raccontando varie cose della propria carriera, ma cose che ci sono sempre e che ci saranno sempre. Ripeto, a me da questo audio qua cosa ho sentito invece è stata la giusta reazione di Mario, che è stata importante ed è stata un senso di maturità da parte sua. Poi ognuno di noi, sappiamo benissimo, può avere le proprie idee su un ex compagno, su un avversario, su altro, però senza mancare poi di grande rispetto. No, perché in uno spogliatoio di professionisti non si è necessariamente amici, non ci si vuole necessariamente un bene dell'anima, non si va necessariamente a cena, questo lo insegna la storia dello sport. Felipe Melo ha reagito invece in modo un po' diverso. Vabbè, però sai, delle volte anche adesso non sapevo che è stato delle Iene, delle volte sono anche le circostanze che si possono portare a un chiarimento. La vita è evoluzione continua, è evoluzione dei rapporti. Io sono amico di Antonio Cassano, che è uno che ha litigato praticamente con tutti e ha fatto pace praticamente con tutti nella sua vita, e non c'è una contraddizione in questo, fa parte del fatto che molto spesso possono nascere delle situazioni, delle incomprensioni, poi chiaramente c'è chi è più predisposto al litigio e chi meno, però poi alla fine arriva il momento in cui ti incontri a quattro occhi con qualcuno, ti chiarisci, e poi molto spesso un po' il tempo chiaramente gioca un suo ruolo, e un po' capisci che probabilmente molte delle cose che sono passate non avevano senso. Quindi sì, adesso non sapevo di questa cosa qui, complimenti per il colpo giornalistico e non solo, e complimenti ai due protagonisti, perché insomma riconoscere, saper superare un litigio secondo me è una grande dimostrazione di intelligenza, ma veramente una delle più alte forme di intelligenza. Ma è chiaro, intelligenti lo sono, poi Marchisio saprà benissimo come anche lui sarà capitato di non andare d'accordo, di non andare a cena tutte le sere con qualche suo compagno, ma questo, ripeto, fa parte delle dinamiche di un qualsiasi gruppo di lavoro. Invece ha fatto molto rumore anche quella dichiarazione, sportivamente odio l'Inter. Ora, noi l'abbiamo detto l'altro giorno, l'abbiamo anche ripetuto, non ci abbiamo trovato niente di peccaminoso in questa dichiarazione di Chiellini, Claudio. No, ma infatti, ma anche perché ora devo fare anche lo juventino, perché poi quando capita dall'altra parte non è che succede chissà che tragedia. Quindi, però io anche in passato, per una malinterpretazione di un giornalista che non era sportivo, ma è perché era un'intervista sulla moda, aveva cambiato un po' le mie parole su come si dice, sul rapporto con il Napoli, perché in quel periodo lì ci giocavamo vari trofei con loro, sia il campionato che la Coppa Italia, la Supercoppa, e invece era uscito fuori che io odiavo i napoletani, che era una cosa assolutamente non vera. Quindi è così, a volte succedono dei qui pro quo. Sì, poi l'odio sportivo è sempre la caccia, è sempre la caccia alla parola sbagliata, alla frase sbagliata, alla frase che può essere malinterpretata per fare un po' di casino, per fare un po' di click. Ragazzi, questo è... Il problema spesso è in chi lo recepisce, in chi legge, non in chi dice. Il problema spesso è anche nostro, della stampa, lo dico sinceramente, insomma, perché poi ogni volta che c'è qualcosa che in qualche modo può solleticare un po' di scandalo, un po' di polemica, spesso c'è chi prende sull'acceleratore. Anche perché soprattutto in questi ultimi anni, con l'avvento dei social, molte volte alcune parole, alcuni articoli o alcune notizie si cercano sempre di tirare l'acqua al proprio mulino per cercare di cambiarle, quindi è anche questo un altro grandissimo problema della vita sociale che c'è adesso, non soltanto dentro lo sport ma in generale. Bene, qualche considerazione? Che effetto ti farebbe, Claudio, rivedere Vidal con Conte all'Inter? No, all'Inter non mi piacerebbe, perché Arturo è un grande, Arturo non molla mai e andrebbe a dare un'anima ancora più forte all'Inter. Io sarei ben felice, ma a Barcellona sta facendo bene e Arturo è uno di quei giocatori, come ha sempre detto anche Antonio Conte, è uno che lo vorresti sempre in campo perché è uno che dà sempre tutto se stesso per la squadra. Intanto vedi Conte all'Inter. Tu che lo conosci bene, Conte si è calato del tutto nel suo essere interista in questa fase della carriera? Ma è l'essere interista, credo che abbia sposato al 100% il progetto, sapendo in che realtà andava a inserirsi Antonio Conte e l'Inter con Antonio Conte, e credo che abbiano fatto un passo in avanti importantissimo rispetto agli ultimi anni. Questa credo che sia sicuramente la cosa più importante da andare a tirare fuori su quello che sta facendo Antonio Conte quest'anno all'Inter. Senti, invece una prima valutazione parziale, per forza di cose a questo punto, di Sarri alla Juve? Ma io ho letto veramente tante cose su Sarri che non erano contenti altro. L'allenatore della Juventus viene sempre scelto e giudicato a fine anno, ma soprattutto anche durante l'anno si guardano gli obiettivi. Gli obiettivi della Juventus è in corsa per tutte e tre, quindi non capisco ora il senso. Quindi credo che il mister Sarri debba continuare, se si riuscirà a continuare questa stagione, perché è in corsa per i due principali obiettivi che sono sicuramente lo scudetto e la Champions League. Allora, ragazzi, ci avete fatto caso che ha detto le stesse parole che ha detto Andrea Agnelli quel giorno che è venuto qua a trovarci? Però secondo me posso dirti, mai come quest'anno è vero in assoluto, e mai come quest'anno è vero per una cosa che diciamo dall'inizio della stagione, cioè che Sarri a maggior ragione è stato fatto questo cambiamento per fare un salto di qualità in Europa, e il salto di qualità in Europa tu lo fai dai quarti di finale in poi. Certo, l'andata degli ottavi non è stata brillante, però voglio dire, in assoluto, se vale, secondo me in assoluto vale come principio, perché i conti si fanno alla fine, ma soprattutto nel caso di un cambio in panchina con un obiettivo così forte e così preciso, è difficile dare un giudizio. Volevo chiedere a Claudio invece, sempre facendo il giro delle cose che abbiamo visto anche sui social in questo periodo, è una cosa che ti chiedo da juventino, ma da piemontese. Ho visto un bellissimo tweet su Superga, non è una novità, insomma, anche questo è un passo avanti verso quella civiltà che dovrebbe esserci sempre, no? Io me lo auguro veramente tanto, ma poi a me mi lega tantissimo Torino come città, ma soprattutto anche il Torino Calcio, perché comunque la voglia di battere dal settore giovanile fino alla prima squadra c'è sempre stata, perché amo il derby di Torino come amo il derby di Roma, il derby di Milano, e quindi quella voglia lì di poterli battere, di fargli gol, è sempre stata una cosa che mi ha fatto tirare fuori sempre tantissima energia. Nello stesso tempo c'è grande rispetto per una squadra, una società e dei tifosi che hanno scritto una storia importante del calcio italiano. Questo esce da Let's Dance, Michael Jordan, li voglio per poterli battere e fargli gol. Ma certo, ma è questa cosa, a me è andata bene perché nel settore giovanile il Torino lo faceva sempre su e giù e invece la mia carriera ha avuto la fortuna di incontrarli spesso. Assolutamente. No, ma questo è il senso vero, è questo. Cioè, dire, senza l'avversario più temuto, senza l'avversario del derby, perderesti un pezzo della vita e della bellezza del gioco. Quindi, insomma, rispettare l'avversario non vuol dire che ti debba stare simpatico, vuol dire avere rispetto appunto per lui e rispetto per la sfida agonistica che c'è, insomma. Io volevo chiedere una cosa su Buffon. Ti sorprende il fatto che abbia rinnovato ancora anche per l'anno prossimo? Sempre lì? No, anche perché la stagione è finita, è praticamente ferma da un po', quindi è giusto che debba recuperare questi mesi, Gigi. Ma poi è talmente tanta energia e tanta voglia di continuare, ma soprattutto che si è inserito bene nel ruolo, comunque un ritorno alla Juventus, stando in panchina, quindi non giocando sempre, facendosi ancora di più uomo spogliatoio, quindi la reputo una cosa importante per una squadra che comunque negli ultimi anni ha cambiato tanto, e lo zoccolo duro italiano piano piano, se non cresce, non crescono da sotto, i senatori stanno arrivando alla fine della loro carriera, quindi ancora un altro anno con lui può aiutare tantissimo sia i nuovi arrivati, gli stranieri, ma anche i giovani italiani che devono crescere, devono prendersi poi le responsabilità del gruppo. Per salutare, prima di salutare tutta la compagnia, lascio a Giovanni l'ultima domanda. Chi è? Dai. No, volevo farla anch'io. No, dai, allora faccio la penultima. Tra tutte le ipotesi della tua carriera, da imprenditore, eccetera, eccetera, un futuro del calcio lo vedi? Questa è una, la prossima. Allora la completo, perché tanto eravamo su quello stesso tipo di argomento, e cioè parlando di Buffon e parlando anche di quello che stiamo leggendo, le difficoltà di tanti ex, mi viene in mente Maldini al Milan ad esempio, credo che la conclusione sia che forse i senatori, i calciatori di una certa età, quelli che poi mollano nel calcio italiano, funzionano meglio ancora dentro lo spogliatoio che dietro una scrivania, o forse Marchisio può essere l'eccezione? No, e ognuno di noi deve fare il proprio percorso. L'importante è che, almeno per come l'ho sempre ragionato io, non bisogna per forza prendere una strada perché faceva parte del tuo passato e può essere sicuramente quella giusta. Si può sicuramente fare, si può sicuramente cercare qualcos'altro, creare delle nuove passioni o dei nuovi obiettivi nella vita che non devono essere per forza legati allo sport. Come ho detto in altre occasioni, non per forza un calciatore debba fare l'allenatore, perché sono due lavori completamente diversi. Cosa ti piacerebbe fare quindi? Io ne ho già tante di cose da fare in questo momento di difficoltà, sono già belle impegnate, va bene così. Grazie a tutti, grazie Claudio, a presto. Ciao. Grazie a voi. Grazie davvero Claudio Marchisio, Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano, ovviamente ci ritroviamo a strettissimo giro di posta. Adesso vi saluto perché poi voglio buttarmi, innanzitutto c'è la notizia ufficiale, mondo dei motori, c'è la notizia ufficiale di Sainz che ha firmato a partire dal 2021 per la Ferrari. Ma guarderemo anche al mondo a due ruote, perché lì siamo in attesa del timbro sul calendario che prevede la partenza a Jerez il 19 luglio. Signori, da torinista devo dire che fa piacere veramente sentire una persona intelligente come Marchisio esprimersi in questo modo, con questa misura, con questa scelta delle parole. Veramente complimenti, bravo. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. We have a meeting with the Vice President of the Government of Andalusia, with the Lady Mayor of the City of Jerez and myself to make two events of MotoGP, one event of Superbike in the 19th and 26th of July and the first week of first Sunday of August. Quella che avete sentito è la dichiarazione di qualche giorno fa di Carmelo Speleta, il boss del mondo del moto mondiale. La notizia dei motori ufficiale di oggi, la ripeto, è che Sainz ha firmato con la Ferrari, riguarda ovviamente le quattro ruote, Sainz ha firmato con la Ferrari per due stagioni a partire dal 2021. Ne abbiamo già parlato e torneremo a parlarne. Mi interessano le moto in questo momento. Saluto e ringrazio Paolo Ciabatti, ovviamente capo del quarto corso della Ducati. Ciao Paolo. Ciao Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che abbiamo strappato da mille riunioni per qualche minuto, però era necessario perché vorrei parlare di questo. Via il 19 luglio a Jerez correndo due volte sulla stessa pista. Questa è ancora un'opzione, giusto Paolo? Correggimi se sbaglio, manca il timbro del governo spagnolo e qualche altro passaggio formale. Sì, l'opzione più plausibile in questo momento. È chiaro che, come diceva prima Carmelo Speleta, con cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, lui si è incontrato con il governatore dell'Andalusia, col sindaco di Jerez, e hanno concordato sul protocollo eventuale per far svolgere queste due gare il 19 e il 26 di luglio a Jerez de la Frontera e iniziare così il mondiale. È chiaro che manca ancora l'approvazione da parte del governo spagnolo, speriamo che nei prossimi giorni ci sia questo via libera, perché ovviamente sarebbe un bel segno e poter iniziare un campionato, ancorché con 5 mesi di ritardo e magari dovendolo compattare in 2 o 3 mesi, è comunque qualcosa di positivo, visto che fino ad oggi, ahimè, siamo rimasti tutti fermi al palo senza poter dare inizio a quello che avrebbe dovuto e potuto essere un campionato entusiasmante. Senti, forse non la soluzione migliore, ma certamente una soluzione, e quindi se possibile la appoggiamo tutti quanti insieme in coro, ma 2 corse consecutive sulla stessa pista. È chiaro, sappiamo bene come nel mondo dei motori una pista non sia uguale all'altra. Questo è una novità assoluta, ovviamente inedita, mai vista. Questo cosa può comportare? È accettabile? Comporta qualche difficoltà in più? Ma devo dirti che onestamente è una delle proposte che abbiamo fatto noi, nel senso che ci siamo tutti resi conto che comunque la situazione dovuta a questa pandemia avrebbe reso molto difficili gli spostamenti da un paese all'altro, e quindi l'idea di poter sfruttare al massimo il fatto tutto il paddock, tutta la MotoGP o comunque tutto il motomondiale riesca ad entrare in un paese, pensiamo che valga la pena di sfruttare questa opportunità per fare almeno 2 gare, e quindi siamo assolutamente d'accordo, perché è un momento eccezionale, ci vogliono delle misure eccezionali. Io penso appunto che se in questo momento sono previste 2 gare a Jerez, 2 gare a Zeltweg in Austria, 2 gare a Misano, 2 gare ad Aragone, 2 gare a Valencia, ma questo ha anche un altro risvolto, quello che ovviamente riduce anche i costi della logistica, perché si va in un circuito e ci si ferma per 2 settimane, quindi anche dal punto di vista dei costi li riduce in modo importante, e credo che quest'anno sia importante per tutti anche tenere i costi sotto controllo. L'importante era quello di riuscire a fare un'ipotesi di 10-12 gare che potessero avere almeno la copertura televisiva, in modo che se non ci sarà pubblico sugli spalti, almeno il pubblico a casa possa divertirsi e vedere un campionato. Certo, è tutti quello che tutti vogliono vedere, riguarda le moto, riguarda le macchine, ma riguarda anche palle e palloni. Certo. A proposito di costi, questa è una parola chiave in questo momento, volevo farti una domanda più di sistema e chiederti come sono stati gli ultimi 3 mesi in Ducati Corse, cioè il lavoro sulle moto, l'organizzazione, i problemi. Beh, vuol dire, è chiaro che purtroppo, chiaramente non voglio dire una cosa assurda, non c'è mai un momento opportuno, tra virgolette, perché arrivi una pandemia del genere, ovviamente, però visto che sia tutto successo proprio mentre ci accingevamo a partire il campionato, di fatto ha bloccato tutto, e quindi mentre in alcuni altri sport, tipo il calcio, diciamo che il campionato si è fermato, ma i 2/3 del campionato si erano comunque svolti, nel caso della MotoGP e della Formula 1 anche, siamo rimasti veramente fermi alla vigilia della prima gara, e questo ha portato tutta una serie di conseguenze anche dal punto di vista economico che abbiamo dovuto affrontare e gestire in questi ultimi 2 mesi. Chiaramente, se vuoi, il sistema si è fermato perché senza l'inizio del campionato tutta una serie di contributi da parte dell'organizzazione, ma anche per quanto riguarda gli sponsor, hanno subito dei rallentamenti, dei ridimensionamenti, perché appunto dovevamo partire a marzo in Qatar, siamo a maggio e siamo ancora fermi, e speriamo di partire il 19 di luglio. Quindi è stato un lavoro complesso. Nel caso della Ducati, come molte aziende italiane, siamo stati chiusi dal 13 marzo fino alla settimana scorsa, e quindi anche il fatto di aver dovuto chiudere la fabbrica per riorganizzarla, cercando di avere una linea di produzione che rispetti le nuove normative, ma non poter produrre moto e distribuirle perché i concessionari erano più o meno chiusi in tutta Europa nel momento magico per le vendite delle moto, che è la primavera, e tra l'altro abbiamo avuto una primavera con delle giornate spettacolari, è stato chiaramente un danno per l'azienda, e quindi abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni per tenere i costi sotto controllo in un anno che si preannuncia difficile comunque. Sì, i conti si faranno alla fine, credo non sia ancora il momento. Continuano a dirci che dovremmo abituarci ad un mondo, ad una vita più povera, però credo che le dimensioni riguarda le corse, riguarda la produzione, riguarda il nostro stile di vita, sia ancora presto per farne, no? Sì, io penso che sia presto per farlo, anche se ci aspettiamo tutti che ci sia un impatto piuttosto serio, pesante sulla situazione economica in genere e di alcuni paesi in particolare, a partire, insomma, diciamo da settembre penso che sarà più evidente. È chiaro che dal nostro punto di vista anche i costi delle corse in generale, delle competizioni, dovranno riterarsi sulla base di una nuova realtà economica, ed è per questo che abbiamo spinto e abbiamo anche approvato insieme agli altri costruttori una proposta di Dorna di congelare lo sviluppo dei motori fino alla fine di tutto il 2021, perché questo consente di dirigere le risorse, che probabilmente saranno meno, su altri aspetti e evitare di continuare a spendere sullo sviluppo del motore, che è un particolare importante ma anche molto costoso delle moto. Chiaro, quindi come la Formula 1 ha congelato la rivoluzione regolamentare, anche il mondo delle moto ha congelato grosso modo la situazione attuale per due stagioni. Un'ultima cosa ti chiedo riguarda invece chi guida le moto, sempre lì il parallelo con la Formula 1: il 2021 doveva essere l'anno del grande rimescolamento dei piloti. In Formula 1 sta avvenendo, sappiamo di Vettel, vi ho detto prima di Sainz ufficialmente alla Ferrari per due stagioni dal 2021. Nel motomondiale tu prevedi anche lì grandi variazioni, visto che andranno a scadenza tutti i contratti, oppure in questa situazione si andrà avanti grosso modo così? Ma come sai, in realtà alcune decisioni sono state prese da Honda e da Yamaha prima che iniziasse il campionato, e da Suzuki nelle settimane successive, anche se era chiaro che avrebbero voluto continuare sia con Rins che con Mir. Quindi, se vuoi, grandi sconvolgimenti, al di là del fatto che ci sarà Quartararo al posto di Valentino Rossi sulla Yamaha ufficiale, quindi si tratterà di capire se Valentino vorrà continuare col team Petronas insieme, immagino, a Franco Morbidelli. In realtà non ci saranno degli sconvolgimenti particolari. Noi stiamo facendo delle valutazioni rispetto sia alla squadra ufficiale Ducati MotoGP che al team Pramac, che è il nostro team supportato ufficialmente per il prossimo anno. Avremmo voluto farle dopo 5-6 gare, in modo da poter fare una valutazione più accurata e più oculata. Dovremo prendere alcune decisioni prima che il campionato inizi, e quindi sono valutazioni che stiamo facendo proprio in questi giorni. Grazie Paolo, grazie davvero, a prestissimo. Ciao. Grazie Carlo, a presto. Ciao Paolo Ciabatti. Ci fermiamo con il traffico, ma poi continuiamo a parlare di moto, perché non ci sono solo le piste, non c'è solo l'asfalto. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Farvi sentire fino in fondo questa musica, che è quella della moto di Tony Cairoli, perché non c'è solo l'asfalto. In Italia abbiamo il re del motocross, appunto Tony Cairoli, e KTM è la regina mondiale del tassello. Per questo abbiamo convocato Tommaso Telaro, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Ciao Carlo. Ciao a tutti. Ciao Tommaso, managing director, che vuol dire numero uno italiano di un marchio enorme che comprende KTM, Husqvarna e GasGas ora. e che è la regina del tassello. Parto da una domanda di sistema chiedendoti come ha impattato il virus sui vostri programmi, a partire dal mondo delle corse e poi andiamo anche al resto. Beh, il mondo delle corse ha impattato, prima di me c'era Paolo Ciabatti, allo stesso modo per quanto riguarda la MotoGP, per cui non aggiungo di più oltre a quello che ha detto Ciabatti. Sul campionato MXGP, quindi Mondiale Cross, si sono disputate solo le gare, adesso il calendario provvisorio pare, siamo in attesa di conferma, che riparta dalla Russia il 2 di agosto, tutto ovviamente sotto le due verifiche dell'evoluzione della situazione. Questo per quanto riguarda l'ambito sportivo. Sì. E scendiamo un pochino più a livello nazionale, perché io comunque mi occupo dell'attività a livello nazionale, ovviamente è tutto sospeso, così come di riflesso anche il mondo del calcio, insomma, cose, certo, di cui avete già parlato. Ma ci sono spinte per riapertura in tempi ragionevoli? Allora, stiamo valutando e concordando insieme anche alla federazione di poter riprendere quanto prima, sempre nel rispetto del discorso, diciamo, sanitario. È chiaro che l'attività motociclistica è in un certo senso un filo più semplice nella gestione del distanziamento e del evitare la diffusione della pandemia. I campionati a livello nazionale e regionale sono ovviamente sospesi. È chiaro che dopo due mesi di reclusione in casa, la voglia delle persone comunque è quella anche di, insomma, uscire un po' all'aperto e tornare a fare quello che piace, anche in maniera un po', come dire, di catarsi, di purificazione da questo blocco forzato. Visto che ha scritto Tony Cairoli sotto il suo post, abbiamo fatto sentire ovviamente il rumore, ci sono anche le immagini, le sue parole: non vedevo l'ora di riprovare la mia moto, questo è chiaro. Sì, Tony ha la fortuna di avere così vogliamo chiamare di casa a due passi da dove sta Roma, ha ricominciato venerdì ad allenarsi, non tutti sono ad avere una pista in esclusiva, per cui è chiaro che noi stiamo spingendo per cercare di poter rimettere in sella tutti quanti. Un esempio fra tutti: noi abbiamo il nostro piccolo, che però è grande, una grande community, il nostro trofeo marca Enduro KTM Husqvarna, che conta comunque 500 partecipanti. L'abbiamo dovuto posticipare, di fare tutto il possibile per comunque dare la possibilità ai piloti di divertirsi l'enduro con sport che si presta ad essere fatto in qualunque Tommaso, momento della stagione. Perdonami un secondo, proviamo a richiamarti perché non si sente perfettamente e sono parole di grande importanza, quindi ristabiliamo la comunicazione con Tommaso Telaro, Aldo Reggio Emilia al volo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Vi seguo sempre. Volevo solo darvi questo ulteriore spunto di riflessione sulla questione calcio. È giustissimo quello che tutti i giorni, cioè l'industria, bisogna trattarla come industria, però secondo me stiamo sottovalutando anche quello che i latini definivano panem et circense, cioè abbiamo tante persone che in questo momento vivono anche una situazione poco allegro, comunque moralmente non altissimo. Il calcio aiuterebbe, con le sue storie, le sue vicende, le sue passioni, anche ad alleviare questa situazione che non è delle più rose. Quindi sì, il ministro Spadafora secondo me dovrebbe tenere in considerazione anche questo tipo di considerazioni. Sono d'accordo con lei e le rispondo con le parole di Platini di Rummenigge, con coincidenza temporale peraltro, quando erano giocatori, che mi farei tatuare. Ieri ha detto: la Bundesliga riprende, sarà il primo grande campionato a riprendere, ci guarderanno in televisione miliardi di persone in tutto il mondo, e questa è una grande vittoria non solo della nostra Lega, ma anche della nostra politica, che col suo ottimismo ha permesso di arrivare a questo punto. Vorrei tornare invece alle moto con Tommaso Telaro per chiedergli come vede una sua visione quasi da Steve Jobs sul mondo delle moto, per quanto vi riguarda, attuale e sul futuro. Mi sentite meglio? Sì, molto meglio, Tommaso. Allora, mi piacerebbe avere una risposta con la sfera di cristallo. È complicato in questo momento fare previsioni, il presente lo stiamo vivendo in termini di mercato con uno stop improvviso che ha visto un aprile praticamente a zero. Sta riprendendo gradualmente in maniera anche piuttosto vigorosa, ma semplicemente perché sono le code di questa frenata improvvisa. Dire adesso quale sarà la flessione del mercato entro la fine dell'anno è complicato. Io ho una mia visione un po' romantica del business, per cui tanti parlano di digitalizzazione, di smaterializzazione del processo di vendita, che sicuramente è già in corso da tantissimo tempo nei prodotti di largo consumo. Sul prodotto moto, che è un prodotto emozionale, io sono convinto che sì, si può più che smaterializzare la parte emotiva, si può forse smaterializzare e rendere meno burocratica la parte diciamo amministrativa, ma alla fine credo che il contatto con l'oggetto e anche con chi, i professionisti del settore che sono in grado di spiegare che cos'è un oggetto di passione come la moto, questo difficilmente potrà essere intermediato da un mezzo digitale. Quindi ben venga l'aspetto positivo che in ogni crisi c'è, che è quello, mi auguro, che venga colto, che è quello di ridurre gli aspetti burocratici di ogni tipo di attività, non parlo solo della vendita, parlo dei processi anche di amministrazione pubblica. Questa è una grandissima opportunità che spero non venga persa. Poi la gente, io credo, siamo animali sociali, le persone hanno bisogno di parlare con persone, di confrontarsi, di avere un contatto diretto, e ripeto, è forse una visione romantica. No, guarda, io ti dico, a me verrebbe subito voglia di abbracciarti per quello che hai detto, perché condivido tutto quanto dai processi di vendita. Io, avendo una certa età, devo vederla la moto, toccarla, provarla e sentire come suona, ma davvero non sul computer. Quanto al resto, vabbè, di che stiamo a parlare, mi sembra un libro stampato. Senti, a KTM come siete messi dal punto di vista della produzione e dal punto di vista delle prospettive? Si parla molto di questa ripresa a V, a U, non so come, di rimbalzo, di rimpiattino, purché avvenga. Allora, la fortuna di fare parte di un gruppo multinazionale è quella di farci vedere il bicchiere mezzo pieno e soprattutto di farci percepire differenze in termini di paesi, di che cosa sta succedendo nel resto del mondo. Se guardiamo la Cina, la ripresa è già avvenuta in maniera abbastanza vigorosa. A livello di produzione, la produzione a Matigofen è ripresa a pieno ritmo. Il reparto ricerca e sviluppo aveva già ricominciato l'attività un paio di settimane fa. Dal punto di vista di produzione invece, in altri siti produttivi, mi riferisco all'India in particolare, lì purtroppo, essendo la pandemia partita un pochino più in ritardo, siamo fermi. Dipende dalla tipologia di paese. Io, per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, non mi aspetto una ripresa a V, a doppia V o a quello che sia. È innegabile che sarà un anno complicato, sarà un anno che vedrà una flessione che sia del 20, del 30%, ripeto, non lo so dire, però su un prodotto passionale, su un prodotto che però in questo momento non rimane più solo nell'ambito della passione, è stata lanciata una campagna a uso delle due ruote assieme ad ANCM, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Motocicli e Accessori Biciclette. La moto, a voler vedere, è un mezzo che può aiutare sicuramente nel modo di muoversi, nel mantenere le distanze sociali, nel minimizzare i percorsi, i tempi di percorrenza. Mi verrebbe voglia da questo punto di vista di farti un milione di altre domande, compreso l'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ieri sera, i bonus per le biciclette, non per le moto, però lo facciamo un'altra volta, prenderemo opportuno appuntamento. Grazie davvero, Tommaso. Grazie a voi e buona giornata. Ciao, grazie. Carlo. Grazie a Tommaso Telaro, grazie a Giorgio De Luca e a Claudia Schiattone, grazie a Roberta Frisani e a Gianmarco Ferronato. Ci sentiamo domani tutti convocati alle 2. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.